con Roberto Alperoli, direttore artistico della quindicesima edizione del Poesia Festival in 9 comuni modenesi dal 16 al 22 settembre 2019. Roberto, ben trovato. A te e grazie per la telefonata. Un festival che ha già una sua storia e lo raccontiamo? Beh sì, è un festival nato nel 2005, appunto all'inizio erano 4 comuni, 5 comuni del Modenese, appunto Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Savignano, si è allargato, adesso coinvolge da Zocca il mitico comune di Vasco Rossi fino a Castelfranco Emilia. In questi anni penso siano passati davvero, lo posso dire, tutti i maggiori poeti italiani. Pensa che la primissima edizione del 2005 è stata inaugurata da Edoardo Sanguinetti e poi sono passati molti poeti stranieri, dal premio Nobel Bonnefoy, da Donis, Jory Graham, e poi è un festival che pur mettendo al centro assoluto la poesia ha sempre avuto un occhio di riguardo, un'attenzione per i musicisti, in particolare i cantautori che sulle parole hanno lavorato in un modo non banale, e poi molti attori e che in questi ultimi anni, penso di poterlo dire, ha un'attenzione particolare ai ragazzi più giovani, per cui ha coinvolto sempre di più giovani poeti. Quest'anno poi in particolare abbiamo istituito il premio Under 35, appunto rivolto ai ragazzi di sotto i 35 anni, un premio importante. La prima edizione è stata vinta da Giovanna Vivinetto, che è un po' il caso di questo ultimo anno e mezzo, il caso poetico, un libro di grandissima qualità di Kabir Abukar Yusuf. È un festival che cerca un rapporto intimo, posso dire, con le persone, come richiede la poesia. Cosa vuol dire intimo? Vuol dire semplicemente che non funziona la poesia con, a parte che in Italia purtroppo la poesia non fa numeri di massa, però il rapporto funziona quando ci sono i poeti che raccontano se stessi, quando leggono i loro testi. I luoghi, devo dire, molto belli anche dal punto di vista geografico e paesaggistico, perché i paesi che ho detto stanno verso la collina, tra Modena e la collina. Appunto, dicevo, abbiamo dato spazio, abbiamo invitato tutti i maggiori poeti in questi anni. Quest'anno ne cito soltanto alcuni: Mariangela Gualtieri che leggerà Pascoli, Maurizio Cucchi, Silvia Breh, Giusi Quarenghi, Stefano Dal Bianco che farà la lezione inaugurale, Gian Mario Villalta, Antonio Riccardi, Umberto Fiori, Maria Grazia Calandrone. E poi ci sono alcuni grandi maestri della canzone italiana, come Gino Paoli, che racconterà anche il suo rapporto con la poesia, con la letteratura, Enrico Ruggeri, e quel grandissimo, a mio parere mai sufficientemente valorizzato, che è Enzo Gragnaniello. E poi ci sarà un personaggio di grande qualità, una scrittrice olandese che si chiama Connie Palmen, che ha scritto un libro bellissimo stampato da Iperborea sulla storia d'amore e di poesia, storia tragica tra Silvia Plath e Ted Hughes. E poi ci sarà anche Caterina Caselli che assieme a una giovane promessa della sua scuderia Niville e a Riccardo Sinigaglia parlerà di come sono cambiate le parole delle canzoni negli ultimi 50 anni. Concluderemo la domenica, appunto si concluderà il 22 come hai detto tu, con Parole Note, che è questa fortunatissima trasmissione di Radio Capital con Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo, che è una trasmissione molto bella, anche diciamo pure pop, che tiene insieme musica, poesia e immagini. E li chiamiamo per la seconda volta proprio per la stima che abbiamo per il loro lavoro. Devo dire che in questi anni abbiamo constatato una crescente adesione, anche perché non è una manifestazione isolata. Noi nell'arco dell'anno che passa tra un festival e l'altro, ormai questi ultimi anni abbiamo organizzato costantemente altri appuntamenti legati alla poesia, per cui possiamo dirlo, credo, senza essere sopra le righe, abbiamo radicato questo festival in questa terra, e penso di poter dire che la poesia, quando coinvolge, appunto, quando viene portata alle persone, quando si costruisce un rapporto con le persone, in luoghi appunto anche intimi, familiari, in luoghi civili e umani, Beh, la poesia in realtà è un linguaggio che arriva a tutti, perché poi è il linguaggio che cerca di connettere cuore e cervello, è il linguaggio del pensiero e delle emozioni, è un linguaggio misterioso che appartiene all'umanità e cerca di dire l'indicibile continuamente. Io direi proprio che la poesia ci trasporta nel punto esatto dove tutti ci somigliamo, perché ci porta in quel luogo umano che sa di eterno, per cui ci fa uscire dalla nostra soffocante quotidianità. Nel complesso, quanti saranno gli autori e le autrici invitati? Ma se li mettiamo insieme tutti saranno un'ottantina, considerando i ragazzi più giovani e anche quelli che magari hanno una storia breve, per cui saranno in 7 giorni sono circa un'ottantina i poeti. Poi ci sono appunto alcuni attori, alcuni musicisti, anche alcuni meno noti di quelli che ho citato. Per cui diciamo che gli ospiti che circoleranno in questi 7 giorni sono poco più di un centinaio. Dicevi, ecco, della poesia che in Italia fatica un po'. Più in generale, qual è secondo te lo stato dell'arte, della poesia oggi nella società? Ma guarda, se ci fermiamo soltanto ai dati di vendita dei libri, dovrei dire che la poesia ha una dimensione marginale, perché i libri, come noto, si vendono, i libri di poesia si vendono non tanto. Dal mio punto di osservazione, per quel che io vedo in particolare, per quello che si muove tra i ragazzi più giovani, penso che la poesia in questi anni abbia avuto una grandissima ripresa. Circola molta poesia sui social, ci sono molti siti dedicati alla poesia, molte riviste sul web, e ci sono anche tanti piccoli editori di cui ignoravamo l'esistenza, che grazie a questo concorso, a questo premio di cui parlavo prima, abbiamo scoperto l'esistenza, per cui direi che nessuno parla più di morte della poesia come alcuni decenni fa qualcuno faceva. Per cui penso di poter dire senza enfasi che ci sia stata davvero una netta ripresa e un grande interesse tra i ragazzi più giovani. Il problema è che appunto la poesia bisogna portarla, come dire, alle persone, bisogna far incontrare direttamente gli autori che leggono i loro testi, perché la poesia non la incontri in televisione, non la incontri sui giornali, la incontri pochissima per radio, per cui è un linguaggio che va cercato, lo devi cercare. Mm-hmm. Anche la mia personale esperienza di persona che fa parecchi incontri con le scuole, sia medie inferiori che superiori, mi porta a dire che c'è un interesse immediato da parte dei ragazzi, per cui sono molto speranzoso e penso davvero che la poesia abbia un grande futuro. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul festival? Basta digitare Poesia Festival e si trova assolutamente tutto. Perfetto. È proprio sufficiente Poesia Festival, perché è il nostro marchio, è appunto, esiste da 15 anni e lì si trova il programma completo. Ricordiamo la 15ª edizione del Poesia Festival in 9 comuni modenesi dal 16 al 22 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Roberto Alperoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico e a tutti voi.